nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Scusate, stavo provando il silenzio. Il silenzio elettorale. Voi sapete che oggi non si può parlare di partiti politici, di esponenti politici, non si possono invitare neanche a pranzo. E quindi ho detto, ma proviamo che effetto fa il silenzio, no? Perché effettivamente un argomento così, diciamo, appetitoso come quello della politica a un giorno dal voto, insomma, dovendolo evitare, lascia un vuoto enorme. Non so se, dal vostro punto di vista, per me. E sì, allora volevo provare un escamotage. Dico, se io faccio un minuto di silenzio, no? Sapete quando si dice facciamo un minuto di silenzio, può bastare? Invece mi hanno detto no, tutta l'ora non si può parlare. Quindi niente, questa che voi sentite è la mia voce, non ho cambiato sesso, sono sempre io. E niente, evidentemente. L'inverno è duro e pesante e continua, nonostante qualche anima candida già tempo fa avesse detto l'inverno è praticamente finito e la primavera alle porte. Invece ce lo dovremmo portare ancora a lungo, sentivo oggi il colonnello Giuliacci. Ho provato oggi stamattina, che ho la febbre, non ho dormito, a dare qualche do di petto per scaldare un po' la voce e farmi trovare un po' più decentemente da voi. È venuto solo un do di ginocchia, ecco, non, niente di più alto. Comunque, insomma, scusatemi, oggi questa è la mia voce. Il numero per voi è sempre 800 24 00 24, perché di notizie ne avremo comunque molte di cui parlare, ci sono dei temi molto caldi di interesse generale. Numero verde, quindi numero non solo gratuito ma anche ecologico, così evitate di disperdere le vostre energie, pensieri, tempo altrove, convogliateli qui a Non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24. Fra le notizie naturalmente il fatto che abbiamo appena ricordato che domani si vota, domani è lunedì. Diciamo che è comunque pur sempre un dovere civico e soprattutto un diritto, quindi inutile poi lamentarsi se uno non va a votare. È vero che si dice il porcellum non permette di votare chi si vuole votare, ma già tutto. Comunque, insomma, facciamo un po' questa azione, anche se fa freddo, di grande civiltà e partecipazione democratica. Poi sapete che i Marò sono già tornati due Marò, sapete, i soldati detenuti in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani. Sono tornati perché devono votare. L'unica domanda che mi pongo: come è stato possibile che sono riusciti a fare tornare, mi fa piacere, i due Marò e tutti gli studenti dell'Erasmus? Non c'è stato modo di farli tornare. Comunque, questa è una domanda proprio en passant. Il Papa, ovviamente, con le dimissioni, col conclave alla porta, con tutti questi veleni, dossier segreti, ricatti di denaro e sessuali, insomma, di cui si parla, anche se oggi sulle prime pagine dei giornali online, il Papa dice si tenta di condizionare il conclave, e anche il segretario di Stato Bertone dice queste sono calunnie, sono infamità, per cercare, insomma, di condizionare le elezioni del prossimo Papa. Questo è un argomento, mi sembra, caldissimo di cui parlare. Già ne avevamo parlato un po' la settimana scorsa, ma ovviamente il tema va avanti, è sempre molto centrale, come anche quello di Pistorius, che ieri è stato liberato, Oscar Pistorius, su cauzione. E c'è stata subito la durissima reazione della European Women's Lobby, che riunisce le principali associazioni europee per i diritti delle donne, che ha detto: il caso Oscar Pistorius è un clamoroso esempio di impunità nei casi di violenza e omicidio contro le donne. Chi commette il delitto non viene perseguito e le vittime sono lasciate senza sostegno e senza un adeguato riconoscimento da parte del sistema giudiziario. Anche la Lega delle Donne dell'ANC, che è il partito al potere in Sudafrica, ha condannato questa svolta, diciamo, e anche le reazioni di molti uomini che in tribunale, insomma, hanno fatto il tifo per Pistorius, dicendo comunque sempre morta una donna, una vittima innocente. Sappiate anche, fra i vari casi che sono stati molto seguiti, hanno creato anche una certa scia emotiva, che torna in Italia per il 20 marzo, avrà un'udienza, il processo a Salerno d'appello, Danilo Restivo, sapete, l'uomo accusato di aver ucciso Elisa Claps, la ragazza che è stata trovata dopo 17 anni, pensate alle storie italiane, dopo 17 anni sepolta nella chiesa di Potenza, tornerà, è già stato condannato a 40 anni in Gran Bretagna per l'uccisione di una donna e una sua vicina, adesso va al processo di appello, in primo grado condannato a 30 anni, vedremo un po' come andrà il prossimo 20 marzo. Per ora è l'unico imputato, però gli avvocati della famiglia di Elisa Claps sperano che vengano anche un po' fuori i nomi di chi ha coperto tutta questa vicenda. E poi la Corte Europea di Strasburgo ha emesso una sentenza storica, mi piacerebbe che voi anche diceste le vostre opinioni su questo argomento, sia l'adozione dei figli dei partner, quando per esempio è il caso di due donne austriache, una si è separata dal marito, forse questo marito non curava abbastanza il figlio, non ci sono molti dettagli, si è messa con una donna e ha chiesto, quest'altra donna ha chiesto di poter essere un genitore adottante di questo bambino, e la Corte di Strasburgo ha detto sì, perché siccome anche le coppie non sposate eterosessuali in Austria possono farlo, perché non possono farlo quelle dello stesso sesso? Insomma, argomenti moltissimi e un sacco di, diciamo, carne sulla griglia. E però vi voglio anche naturalmente sempre dire che cosa anche questa settimana ci dice che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. A proposito di carne alla brace, ecco, sapete, in Cina c'è un inquinamento pazzesco, voi vedete dall'alto le città, Pechino soprattutto, proprio una fuligine, una nuvola nera, e insomma questo è il prezzo un po' del progresso, della ricchezza, però un pochino stanno mettendosi ai ripari anche loro. Sapete cosa hanno proibito in Cina? Il barbecue all'aperto. Il barbecue all'aperto non si può più fare, perché sapete c'è una tradizione proprio in Cina che comprano questi baracchini, gli spiedini, eccetera eccetera. No, dicono le autorità cinesi che sono troppo inquinanti. Ecco, quindi d'ora in poi o se li fanno a casa loro con un camino bello tirante, se no si arrangiano. Fra l'altro pensate che i giapponesi si lamentano della coltre di inquinamento che a metà del mese scorso ha oppresso Pechino e a causa di vari venti ha infestato anche il paese del Sollevante. Quindi c'hanno anche i paesi confinanti, diciamo abbastanza vicini, che si lamentano, tanto è questo inquinamento in Cina. Ma a questo punto, signore e signori, direi senz'altro di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Michele Brambilla. Michele. Eccomi qua. Ah, eccolo. No, so che sei malato anche tu, ce lo siamo detti via sms questa mattina. È un caso straordinario che la conduttrice dell'opinionista. Sì. Tu sei nel tuo lettino, però qualcuno ti ha fatto il brodino? No, non me l'ha fatto nessuno. Con tanto formaggio. Con la copertina sulle gambe. Come? Cioè, avrai un figlio, una figlia, una moglie? No. Io ho cinque figli, quindi nessuno che ti ha fatto il brodino di questi cinque figli? Sì, no, ce n'è uno in particolare che è molto servizievole, quindi non sono lasciato da solo, assolutamente. Bene, no, mi stavo preoccupando, perché stamattina ho detto, guarda, ho scritto un messaggio a Michele Brambilla, che è editorialista della Stampa, inviato della Stampa, dicendo, guarda che anch'io ho passato una notte, e lui mi ha detto, si vede che faremo una trasmissione da diversamente sani, ecco. Esatto. Quindi sappiatelo. Questa volevo anche avvisarti subito di una notizia che forse non hai saputo, non hai visto sui giornali. Batwoman si sposa. Magari tu non fossi informato su questa cosa. Con una donna, l'ha deciso la Marvel, sai, la casa di fumetti famosissima dei supereroi. Cioè, ha deciso. Che dici? Stiamo andando avanti anche nei fumetti? Succede nei fumetti e ci sono un po' di difficoltà invece, per esempio, in Italia su questa cosa? No, mi sembra che adesso sia un po' di moda questo, però te lo dico sinceramente, adesso mi sembra che si senta quasi in obbligo di trovare storie di questo tipo dappertutto, da Sanremo ai film, ai fumetti, mi sembra un po' che si stia, come dire, seguendo un filone, ecco. Perché però è, diciamo, un filone che allarga, che allargherebbe finalmente i diritti, no? Che ci sono ormai in tutta Europa. Anche oggi è notizia sulla prima pagina del Corriere Online di Obama che scende in campo a favore delle nozze gay. Diciamo, quindi, insomma, forse è il momento storico giusto questo, poi vedremo, insomma, una volta. È un momento in cui sta cambiando tutto, certo. Eh? È un momento in cui sta cambiando, tutto. A proposito del Papa, per esempio, di questi cambiamenti, che ne pensi di quello che sta succedendo, del gesto stesso del Papa? L'abbiamo commentato con le ascoltatrici e ascoltatori già settimana scorsa. Io ho detto molto sinceramente che non ho mai amato questo Papa, l'ho detto sinceramente, troppo conservatore, poco accogliente, poco caldo, non so, mi ha dato la figura di un papa, il mio papa di riferimento, dico sempre Papa Luciani, però l'ho trovato un gesto di libertà, di coraggio, di uno che rinuncia a un potere immenso senza farsi troppo il problema di dire oddio, adesso che faccio, non muoio papa, ero arrivato così in alto e mi tiro indietro. A me è sembrata una cosa tutto sommato, secondo te? Io dico che sono rimasto scioccato perché non siamo abituati a vedere un papa che si dimette, infatti era successo l'ultima volta di fatto 800 anni fa, perché poi il precedente di 400 anni fa è diverso. C'è stato un grandissimo sconcerto, credo, anche tra i non credenti, tra i non praticanti, certo. Perché l'idea è che il papa resiste fino alla fine. Tu hai detto un gesto di libertà di un uomo che rinuncia a un potere immenso. Sì, però ai cattolici è stato anche detto da sempre, per secoli, che non è un potere ma è un servizio, no? Il Papa è servus servorum Dei, quindi servo dei servi di Dio, e quindi che il papato era anche portare una croce in certe condizioni di malferma salute, di problemi, di guai, eccetera. Pochi anni fa noi abbiamo... tutto il mondo ha esaltato l'eroismo di Papa Wojtyla, che nonostante la malattia era lì, cercava di essere presente, batteva il pugno quasi rabbioso sul libro che non riusciva a leggere all'angelo, se vi ricorderete quel gesto, e quindi abbiamo detto che quest'uomo aveva dimostrato che si può servire, in quella logica rovesciata che è il Vangelo, si può servire la Chiesa anche nell'infermità, con la testimonianza, con la preghiera, con la sofferenza. Quest'uomo ci dà una testimonianza completamente diversa. A me, a differenza tua, Ratzinger era molto simpatico. Ah, sì? Perché trovo che parlasse di Dio e di Gesù in un modo affascinante. Questo gesto mi ha disorientato. Abbiamo funzionato un po' al contrario, diciamo. Sì, io l'ho stimato dopo e tu l'hai apprezzato prima. Insomma, io però non mi permetto di criticare lui, per carità. Io sono stato a Roma, ho sentito molti cattolici, anche preti, tutti i preti romani che sono andati giovedì all'incontro, che erano un po' scossi e dicevano: se l'ha fatto per il bene della Chiesa, però al momento non riusciamo a capire, a comprendere bene i motivi. Poi dopo ci ritorniamo naturalmente su, perché fino a che appunto non ci sarà il conclave, che dovrebbe essere, tu che stai seguendo, no, per la stampa, entro metà marzo, la prima metà di marzo, no? Sì, sì, sì. Adesso si è discusso se si poteva anticipare al 10 o se partire al 15, comunque. Beh, penso che poi parleremo di cosa pensa Hans Küng, che magari a te non piace, teologo svizzero, sacerdote. Beh, guarda, che a me piace molto. Ratzinger erano grandi amiconi e grandi. Io penso che Ratzinger alla fine... ci sia stato un equivoco colossale. Ratzinger è stato scambiato per un tetro conservatore, ma non lo era tu dici fatto. Di no. E alla fine rimane il gesto più rivoluzionario nella storia del papato, l'ha fatto lui. Non a caso Ratzinger era con Hans Küng il teologo progressista che spingeva per i cambiamenti più radicali durante il Concilio Vaticano II. Tra l'altro mi chiede un ascoltatore, Alessandro, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, dice: mi pareva di aver sentito per un attimo Michela Brambilla, che è l'ex ministra, no, del governo Berlusconi al turismo. L'hai mai incontrata, Michele? Sì, sì, l'ho incontrata, non siamo parenti, ma l'ho incontrata perché io a un certo punto, dieci anni fa sono diventato direttore di un quotidiano che si chiama La Provincia, sì, di Como, che aveva un'edizione anche di Lecco. Lei è di Lecco, era vicepresidente dei commercianti di Lecco, per cui in quella veste l'avevo conosciuta quando era ai primissimi passi della sua attività militare. Era giusto così, insomma, era una curiosità. Questo ascoltatore ha avuto un attimo di smarrimento, nel senso positivo o negativo. Laura, però, eravamo con Laura da Modena, all'800240024. Laura, quindi Pistorius, volevi parlare di Pistorius? Sì, esattamente. Non tanto perché la vittima sia una donna e quindi mi dia scandalo il fatto che lui sia stato rimesso in libertà dopo averla presumibilmente uccisa, quanto il fatto che sia stato rimesso in libertà dopo aver presumibilmente ucciso una persona contro il pagamento di 80.000 euro. 85.000, sì. 85.000. Allora, il che significa che ci sono veramente due pesi e due misure e che la giustizia non è uguale per tutti. Penso anch'io. Laura, tra l'altro, pensa che leggevo che il suo avvocato è uno tostissimo, questo avvocato, vediamo se riesco a trovare il nome, Barry Rooks, che ha fatto uscire anche persino un generale dell'apartheid, pensano, quando c'era l'apartheid in Sudafrica, è riuscito a farlo uscire così indenne. Soldi. E lui viene pagato, dicono le indiscrezioni, da Pistorius fino a 6.000 euro al giorno per i suoi servigi. Comunque, è normale. Laura, ti ringrazio per questa osservazione, mi piacerebbe sapere Michele Brambilla di questa vicenda, cosa ne pensa Michele? Beh, sono d'accordissimo, questa cosa della libertà su cauzione è raccapricciante, perché crea veramente una giustizia parallela per i più ricchi. E io adesso non, insomma, me ne guardo bene dal violare il silenzio elettorale, ma c'è chi l'ha messa nel programma questa cosa, di introdurre anche in Italia la possibilità di uscire dietro il pagamento di una cauzione. Vabbè, no? Noi non lo diciamo, chi lo... però no, effettivamente però non è una delle cose più straordinarie, diciamo, promesse nei programmi di questa campagna. Sentiamo Ezio da Torino, sempre all'800240024. Ezio. Sì, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo segnalare soltanto una cosa. Sì. Ieri mi è arrivata su internet dalla Cina una segnalazione in merito a un signore che era proprio... mortificato sul fatto che in Cina oggi viene assolutamente vietato l'uso del barbecue all'aperto. Ma scusa Ezio, Ezio, quando hai acceso la radio? Non per sapere i fatti tuoi. Io l'ho accesa, cioè io sono sempre sintonizzato su Radio 24. Sei sicuro dalle 14 oggi, dalle 14 che non ci sono più le mezze stagioni, eri sintonizzato? Sì. L'ho detto io in apertura. L'ho detto in apertura. Dalla macchina. L'ho detto in apertura questa cosa, Ezio, non ti voglio rimproverare pesantemente, sì, infatti, però l'ho detto in apertura. Però... Io volevo segnalare soltanto una cosa, sì, che in Cina hanno vietato l'uso dei barbecue all'aperto, e non vietano assolutamente il fatto che vengono scuoiati dei poveri cagnolini vivi e messi dentro delle pentole sotto nell'olio bollente. Lo so Ezio, hanno una mentalità e una cultura anche nei rapporti con gli animali completamente diversa dalla nostra, che pure ne combiniamo anche noi, magari non così diffusamente di massa. E per me è deprecabile questa cosa, assolutamente deprecabile. Poi qualcuno dice: vederle queste sì, foto, sì, no, ma le ho viste, le ho viste. Ezio, guardo tutto io. Sono molto informata su queste cose. Ezio, hai perfettamente ragione, anche se poi qualcuno poi di contro dice: ma anche voi che trattate le mucche con gli allevamenti intensivi in questo modo, le galline, anche si sta facendo abbastanza, insomma, sulle galline, spero sempre di più. Secondo te, Michele Brambilla, che non sei Michele Brambilla, grande amante degli animali, ma immagino che anche tu. Grazie, Ezio. Anch'io amo molti cani, anche se non sono un attivista come la mia quasi omonima. E gatti? Un po' meno. Come la gran parte degli uomini. Perché agli uomini non piacciono i gatti, mi chiedo io? Non è che non mi piacciono, però io trovo che, adesso non vorrei spararla grossa, ma nel cane ci sia una dimostrazione di amore quasi soprannaturale. L'amore del cane è incondizionato, ama il proprio padrone anche quando questo non può più dargli da mangiare, quando è malato, sta di fianco al letto, quando è infermo. Mm. C'è sui giornali è uscita una foto qualche giorno fa di un cane che è andato ai funerali della sua padrona ed è rimasto fermo per tutta la messa davanti alla bara, e poi ci è tornato più volte in quella chiesa, ma mi pare che sia, non voglio darti una cattiva notizia, mentre sei malato anche tu, ma è morto questo cane. È morto. Però siccome questa donna andava sempre in una chiesa e si portava il cane, anche quando lei è morta lui continuava ad andare nello stesso posto. Io trovo che il cane abbia una capacità di amare talmente incondizionata, talmente gratuita, che sia, ahimè, difficilmente riscontrabile negli esseri umani. Sono piuttosto d'accordo, non tutti per fortuna gli esseri umani, ma insomma sicuramente un cane ti si dà completamente senza, diciamo, condizionamenti o terzi interessi eccetera. Ma volevo ricordare l'ascoltatrice e gli ascoltatori, prima di passare alla Sane da Napoli, che c'è sempre la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Questa settimana siete intervenuti moltissimi su un argomento che poi mi hanno detto all'ultimo: ma non questa puntata, lo puoi trattare nella prossima. Cioè, visto che è stato fatto il nome e più, da più parti parlano di una possibile donna al Quirinale, fosse mai, insomma, questa cosa, finalmente, non ci credo molto, ma ci voglio sperare. E sono stati fatti tre nomi, uno in particolare, poi chi l'ha fatto se l'ha un po' rimangiato per una serie così di dissidi interni al suo movimento, al suo partito, però ve li avevo sottoposti, sono intervenuti moltissimi. E questo, se volete continuare, continuate per favore sulla pagina Facebook a dire chi vedreste di queste donne volentieri al Quirinale, una su tutte insomma, sta vincendo, perché la prossima puntata mi piacerebbe parlare con voi di questo argomento. C'è Alassane, dicevamo, da Napoli. Alassane. Salve, buongiorno. Buongiorno a te. Alassane, no, volevo chiedere... Che nome è Alassane? Africano Alassane? Sì. No, volevo solo chiedere la vostra opinione a proposito della dichiarazione del fratello del Papa che diceva no a un Papa nero. Ho letto sul giornale di Napoli, vabbè, no a un Papa nero. Come mai ancora questa diffidenza? A questo punto, per quale motivo si disegnano cardinali neri nei paesi africani? Non hanno diritto di presentarsi. A me piacerebbe, non mi è sfuggita questa cosa, questa dichiarazione del fratello del Papa, ti devo dire la verità, quindi non posso dire niente. Se l'avesse detto sarebbe naturalmente molto scorretto, sbagliato, però io non l'ho visto. Tu, Michele Brambilla, hai visto questa dichiarazione? No, grazie Alassane. Non l'ho vista neanch'io e non voglio sperare che non sia stata dettata da un pregiudizio contro gli africani, perché non avrebbe senso e soprattutto sarebbe, ahimè, poco cattolico. Senti, però vogliamo dire, ecco, prendo questo ritaglio, se veramente nella Chiesa si vuole fare pulizia, se veramente ci deve essere una svolta, adesso in vista di questo conclave, tu sai, Michele, che ci sono almeno 3 cardinali che sono un po' invisi, diciamo, alla collettività, questo Mahony, americano, che è stato arcivescovo di Los Angeles, accusato di aver coperto 128 casi di abusi negli Stati Uniti. Poi c'è anche Brady, Sean Brady, cardinale e primate dell'Irlanda, sa quanti casi sono venuti dall'Irlanda, da 18 anni è lì in Irlanda, e le vittime della pedofilia non vogliono che partecipi al conclave perché avrebbe coperto anche lui tantissimi casi. E poi c'è invece il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, che l'accusa sarebbe che pagò molestatori per farli dimettere così in silenzio e sparire. Non sarebbe il caso, visto che da più parti si dice sarebbe meglio che questi non partecipassero al conclave, cioè all'elezione del Papa, che per dare un segno forte di una Chiesa che vuole cambiare, che vuole superare questa crisi strutturale, evitare di farli andare al conclave? Ma sai, da un certo punto di vista ti direi di sì. La Chiesa deve anche stare attenta, e lo sa benissimo, a non cedere a qualunque pressione che l'opinione pubblica gli faccia, altrimenti... Però sai, segnali forti, guarda che davvero questo Papa ha fatto su questo terreno più di quanto fosse mai stato fatto prima in passato. Lui ha costretto tra l'altro una curia e molti, adesso non so come si chiamino, ma insomma cardinali responsabili di queste cose della Chiesa, ha costretto a introdurre l'obbligo di denuncia anche alla magistratura ordinaria, che è un obbligo sul quale c'erano moltissime resistenze. Papa Ratzinger su questa cosa ha fatto veramente mosse coraggiosissime e per questo ha avuto anche frizioni e resistenze molto molto forti. Dicono che lui avesse intenzione di processare questo arcivescovo americano che aveva casi di pedofilia e che avesse incontrato resistenze da parte di buona parte della curia romana. Io non so se con il suo gesto di dimissioni ha voluto anche azzerare la curia, perché la curia di fatto si azzera quando un papa se ne va e quindi cade un consiglio, dare un segnale di pulizia molto forte, può darsi, perché poi dopo lui non l'ha potuto dire, non l'ha detto, però qualche allusione alle ceneri e domenica all'Angelus l'ha fatta, no? Allora, lui delle cose molto coraggiose le ha fatte. Io penso che lui non abbia dimostrato di essere per tante cose davvero un innovatore. Adesso escludere questi cardinali, io penso che da una parte sarebbe comprensibile, dall'altra sarebbe davvero ammettere, un cedere, forse. E diventa poi pericoloso, perché poi il giorno che invece una qualunque potenza mondiale fa pressione perché ci sia un papa favorevole a una guerra piuttosto che no, diventa... Però a me sembra un tema un po' diverso, ma poi continueremo a parlarne. Poi c'è Elio da Varese, Angelo da Lodi, sempre all'800240024, centinaia di telefonate che arrivano alla nostra Alice Cosilli. E poi mi piacerebbe anche parlare di quello che ti dicevo, ti anticipavo, di cosa dice Hans Küng di Papa Ratzinger, papa uscente, e... anche di cosa dice invece il Guardian di cose positive e negative dell'Italia. Adesso ci dobbiamo collegare con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Osservando da quassù, da Marte, con il fidotelescopio, soprattutto la Terra dei Cachi, mi è parso di percepire che questi ultimi giorni siano stati, in consistente misura almeno, i giorni della disillusione. Perché in mezzo alla crisi attanagliante, oltre ai piccoli sogni privati che sfumano uno dopo l'altro, tocca anche prendere atto che pure il Papa è a tempo determinato come un qualsiasi bipede umano. E poi bisogna rendersi conto che un supereroe che rende possibile l'impossibile si scopre in realtà essere molto probabilmente un vigliacco banale omuncolo come milioni di altri nel mondo, picchiatore di donne e femminicida. Inoltre ci si rende conto che è inutile mettersi in fila per avere indietro qualcosa, perché non si restituisce in realtà un bel niente, almeno al momento, e ci si accorge poi che esistono lauree farlocche e patacche travestite da promesse mirabolanti, e chi più ne ha più ne elenchi. In tutta questa avvilente sequela di disillusioni, che succede? Che di fronte a qualcosa finalmente di puro, di bello, di sincero, ormai fagocitati da questa spirale di virale negatività e diffidenza, di fronte, dicevo, a qualcosa di puro, di bello, di sincero, che si fa? Gli si spara in faccia. E in effetti, la fine che un cacciatore ha fatto fare a Belinda, non so se ve la ricordate, la cucciola di cerbiatto allattata e nutrita da tutta la comunità di Biserno in Romagna, lei che era diventata la mascotte del paese e se ne andava in giro come una comune cittadina dagli occhi dolci, uccisa da un cacciatore che le ha sparato da una distanza di neanche 50 metri in una via centralissima dell'abitato. Praticamente un'esecuzione. E la stessa fine ha fatto l'orso trentino, l'eroe di Facebook, che faceva parte di un programma della regione Alto Adige per la reintroduzione, figuratevi, di una specie spazzata via dai cacciatori. Via, spazzato via anche lui. Con la sola colpa, il povero orso, di aver mostrato in questi mesi un atteggiamento confidente con gli umani. Insomma, fatti fuori i sogni, impallinati i cerbiatti e orsi, che cosa resta? Il Porcellum. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina, volutamente disinvolto per non tradire le emozioni, e faccio un segno sul mio segno, come son giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Febbricitante Roberta Giordano, sempre con voi sino più o meno alle 15. Un altro febbricitante, attaccato febbricitante, Michele Brambilla, editorialista della Stampa, inviato della Stampa, dall'altra parte del telefono. C'è una specie di lazzaretto oggi qui, non ci sono più le mezze stagioni. Le vostre telefonate all'800 24 00 24. Prima appunto di rivelare che cosa dice il teologo svizzero, proprio oggi viene mandata in onda questa intervista dalla emittente televisiva tedesca Phoenix. Sentiamo, dicevamo, Elio Davarese. Elio? Sì, pronto? Sì, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Sì, stai viaggiando. Io volevo parlare di un problema abbastanza comune in questo periodo, la possibilità di non poter votare chi non è residente. Io mi trovo in Lombardia per lavoro, che in questo momento è un tema molto caldo, speriamo che succeda qualcosa di positivo per tutti. Io mi devo recare nella mia regione di residenza, quindi in Campania, andare a votare. Sì. Io penso che sia in un paese moderno, ci dovrebbe essere in una regione almeno due o tre posti dove ci sia la possibilità che i fuori residenti, per ragioni importanti, tipo professionale, possano avere la possibilità di votare. Che tanti miei colleghi hanno rinunciato per costi, per altri problemi, quindi penso che sia una proposta abbastanza fattibile, secondo me. Ti ringrazio, Elio. Effettivamente, insomma, è un'osservazione fondata, perché tu cosa pensi? È così difficile, a parte gli Erasmus che sono rimasti all'estero, ma anche all'interno delle regioni italiane riuscire, come diceva Elio, a costituire dei presidi, degli uffici, qualcosa dove possano votare anche le persone che non sono residenti in quella regione? Che ne pensi, Michele? No, penso che non dovrebbe essere difficile. E mi viene in mente la scena ottocentesca a cui assistiamo ogni volta che entriamo in un seggio, questi libroni enormi da firmare, queste matite, queste schede, queste, cioè, nell'epoca di internet, degli smartphone, io non dico di informatizzare tutto, però che non ci possa essere un sistema che permetta con un computer di subito spuntare un nome che ha votato a Varese anche se residente a Napoli, e quindi da farlo risultare già votante anche nel suo seggio, non so, non mi sembra una cosa impossibile. Mi capisco un po' di arretratezza, ecco, di un po' di arretratezza, diciamo. Mamma mia, Ha ragione Elio. Invece c'è Angelo da Lodi, sempre al numero verde 800 24 00 24. Angelo. Sì, buongiorno. Buongiorno Angelo. Volevo solo fare una piccola considerazione. E dalla sua voce lei è una persona dolcissima. Ma mi permetta, lei è tremendamente preziosa. Sì, ma può darsi, no, può darsi. Ma però, no, ma che cosa ho detto? Ma non voglio offenderla. No, ma non mi offendo. Giusto per il fatto che lei quando parla e qualsiasi argomento si capisce da dove vuole arrivare. Ma al di là di questo, almeno sono forse trasparente. Riferito al Papa, giudicare un Papa se è progressista o conservatore dal fatto che non ha un occhio di riguardo, mi permetta la parola, verso gli omosessuali è una cosa veramente... Non è soltanto questo, non è solo quello che è una cosa importante. Non voglio portare via tempo agli altri. Lei si vada a sentire, forse magari Brambilla la può aiutare su questo, si vada a sentire il discorso che ha fatto prima di iniziare il conclave, che poi dopo è stato eletto Papa, ai cardinali, essendo camerlengo, ha fatto un discorso e ha parlato del relativismo. Ci vado a sentire quel discorso e poi magari forse... Anche la sua concezione del relativismo non mi trova d'accordo, ma posso dirlo apertamente, no? Io ho preso lo spunto dal Papa, ma potrei tutti i sabati intervenire per dirle da che parte faccio, ma non ce l'ho con... Angelo, ma intervieni e dimmelo, non c'è nessun problema. Che poi dico, voglio dire, ma sì, un Papa va a discutere sul pilastro della concezione cristiana che è la famiglia. Guarda, è difficile pensarlo. Guarda, per esempio, Papa Luciani, così come Ascung, come Gallo, no? Don Gallo, che sono comunque dentro la Chiesa Cattolica. Aspetta, Angelo, scusa, sono per esempio per un'apertura, anzi per il sacerdozio femminile, un altro tema questo, no? Fra i tanti. È uno dei tanti temi questi. Ma non mette in discussione la famiglia, mi capisci? Cioè, nessuno... Ma nessuno mette in discussione la famiglia, però, Angelo, tradizionale. Ma il matrimonio di gay cos'è? Ma scusa, significa che ci sono i matrimoni gay, improvvisamente crolla tutta la famiglia, tutti gli eterosessuali che volevano sposarsi e avere figli non possono più farlo. Ma capisca anche un Papa che va a mettere in discussione la famiglia Angelo, però tra le varie cose che ha detto negli ultimi mesi, aveva anche detto una frase che era molto pesante, dicendo che le unioni omosessuali erano contro la verità e la pace, cioè sono cose pesanti da dire in un paese dove insomma un po' di omofobia ancora resiste, no Angelo? Guardate che ministro, cioè, come lo dice e che ministero svolge, però le ripeto, ma anche coinvolgere Ascung e poi Brambilla sarà molto più diciamo profondo che non quello che posso dire io, ma Ascung, le dispute con il cardinale Ratzinger e poi il Papa Benedetto sono su ben altri discorsi, ben altri adesso lo faccio livelli. Adesso vado a toccare un tema, Angelo, ti ringrazio, poi chiamo tutte le volte che vuoi, dimmi pure che sono faziosa. E c'è assoluta libertà, lo dico sempre in questa trasmissione. Ti dicevo, Michele Brambilla, che Ascung, in questa intervista che viene mandata oggi da questa emittente televisiva tedesca Phoenix, cosa dice? Il passo indietro annunciato da Benedetto XVI è una buona notizia perché cambierà il modo di guardare al papato, e ognuno questo può interpretarlo come crede. Però lui, teologo svizzero, sacerdote cattolico, critico, noto per essere critico del conservatorismo della Chiesa, per il sacerdozio femminile, contro il celibato, cosa dice? Dice una cosa piuttosto grave, lui dice questo, che... Papa Ratzinger è stato responsabile del silenzio sulle molestie sessuali sui minori predicato ai vescovi quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Perché dice In questa nella nota vicenda legata alla lettera Delictis Gravioribus, redatta nel 2001 e indirizzata a tutte le gerarchie ecclesiastiche, il testo firmato proprio allora dal prefetto Ratzinger di Chanskung, modificava un documento del 1962, il Crimen Sollicitationis, e in un passaggio affermava Ratzinger che in casi di delitti più gravi, tra cui abusi sui minori, sono soggetti questi delitti al segreto pontificio nella normativa canonica. Ripeto, Kung ha la posizione che conosciamo bene. Io penso che una persona debba essere poi giudicata per tutto quello che ha fatto. Non c'è dubbio che Ratzinger, quando è stato Papa, ha fatto sulla lotta alla pedofilia più di quanto fosse stato fatto da tutti quanti gli altri prima. Lui ha costretto i cardinali a denunciare i casi che avevano, i vescovi a denunciare i casi che avevano coperto. Lui ha imposto di introdurre l'obbligo di denuncia alla magistratura ordinaria, insomma anche in questi giorni si dice che lui ha incontrato resistenze proprio perché voleva fare piazza pulita, voleva processare l'arcivescovo di Los Angeles. Forse ha cambiato idea rispetto a quando scrisse questa cosa. Giudicarlo per una cosa che ha scritto nel 2001 mi sembra quantomeno parziale, ecco. Sì, però questo vuol dire Anskung, che poi da lì in poi, se ci sono state le coperture, è anche per questo, capisci? Cioè tutto questo tempo. Comunque questa è l'opinione e la posizione di Anskung in questa intervista alla TV tedesca. Alessandra da Genova all'800240024. Alessandra. Pronto? Sì, eccoci qui Alessandra. Cara Roberta, la voce più bella di Radio 24, anche se oggi è un po' così. Se lo dici tu. Oggi è cos'ha proprio da buttare. Grazie la Alessandra. La propoli. Sì? Sì, me lo funziona dico, benissimo. Tintura di propoli, 60 docce al giorno suddivise in 3 da 20. Amaro? È amaro? Fa molto bene, perché ti toglie la febbre, ti dà subito una sensazione di benessere, insomma. Vado a correre al parco. La tintura. Va bene, Alessandra, ci proverò. Comunque, dimmi pure. Io appunto, anche a me ha molto colpito le dimissioni di Ratzinger, io però devo dire che per ragioni anche di cultura, chiamiamola così, ho letto diversi testi di Papa Ratzinger. Ora, in questi testi Ratzinger io lo trovo una persona di un'assoluta lucidità, competenza, profondità. Dunque, un filosofo, un intellettuale, uno studioso, certamente questo, tutto questo. E quindi io penso che lui si sia trovato in una prima parte della sua vita a condividere fino a un certo punto l'ambiente della curia del Vaticano. Poi di recente, in questi ultimi tempi, deve essere scoppiata una cosa che ancora noi non conosciamo, a mio parere, di cui il segretario, sottrarre i documenti, io credo che tra l'altro questo segretario sia stato una pedina oppure sia stato… Tu dici Bertone? Prego, no, il segretario o quello che è stato poi arrestato. Ah, quello personale, sì. Padre Gabriele. Sì, padre Gabriele, no. Quello di Vatilix, dello scandalo. Paolo Gabriele, sì. Questo qui io penso che questa sia stata solo una cosa che è la punta di un iceberg di una situazione. Parrebbe di sì, però adesso staremo a vedere, insomma, se man mano ci avviciniamo al conclave e anche dopo verranno fuori queste cose. Si sta indagando, poi c'è anche la questione dello IOR, della Banca Vaticana, insomma ci sono un po' di questioni sul tappeto. Alessandra, ti ringrazio, grazie anche del consiglio sulla propoli, che vediamo se riesco a buttar giù. E c'è Alessio da Arezzo al numero verde, sempre 800240024. Alessio, che dici? Per il segnale della campagna che si lamentava di non poter votare Elio, sì. Perché si trova fuori sede, ma da anni ci sono dei paesi in Europa, tipo la Spagna, l'Europa, dove la Spagna e la Svizzera, dove si vota per posta. Non abbiamo dubbi. Semplice. E quindi è proprio uno dei continui meccanismi che non funziona nel nostro sistema amministrativo. Poi il problema non è votare, il problema è chi si vota a questo giro, perché è veramente imbarazzante il panorama dei politici che si presentano domani. Staremo a vedere che succede, Alessio, domani e dopodomani. Alessio, ti ringrazio e prima di passare ai nostri 3 minuti di Porcellum, volevo dirti, Michele Brambilla, che il Guardian ha dedicato 2 pagine all'Italia, dicendo le 6 cose sbagliate dell'Italia. Dice l'economia stagnante, il modo in cui vengono trattate le donne, sappiamo il femminicidio, sistema giudiziario giudicato lento, farraginoso, a volte politicizzato a livelli allarmanti, il crimine organizzato, la corruzione, il persistere del divario tra nord e sud. Sei d'accordo? Sì, temo che ce ne siano altre. Molti altri, però questi diciamo che sono abbastanza pregnanti. Dimmi una cosa, poi andremo a leggere, una cosa che per te è positiva, una cosa bella dell'Italia, una cosa positiva. Poi... Dell'Italia? Sì, ce ne sono varie, però una che per te è proprio... Io credo che sia, so di dire una banalità, ma l'animo italiano, che è quello di un popolo che sa comunque, lo dico in senso positivo, non negativo, arrangiarsi, cioè reagire, tirarsi fuori, inventarsi qualcosa, la creatività, la capacità di avere uno sguardo anche di misericordia, che a volte diventa buonismo, però... Cioè, l'italiano ha una tradizione, una cultura di un popolo che sa guardare la vita anche con una certa ironia, che non è rigido, ecco, che non è... Io ho amato molto Montanelli, con il quale ho lavorato ai tempi del Corriere. Lui rimpiangeva molto lo spirito protestante del nord, una certa serietà, e lo capisco per tante cose, però io non lo cambierei con il nostro spirito latino mediterraneo. Neanche io, ti devo dire la verità. Gli italiani hanno poi una capacità di inventiva, di creatività che ci riconoscono alla fine. Adesso vorrei sentire, anzi no, abbiamo questo appuntamento, 3 minuti col Porcello, non possiamo mancare. Con il nostro Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale, che ci ha accompagnato durante questo mese per spiegarci ogni volta un pezzetto di questo Porcellum. Ora, tecnicamente, Giuseppe, come si vota domani? Allora, domani si vota Camera e Senato, verranno consegnate, diciamo, si vota anche alle regionali in Lazio, Lombardia e Molise. Sì. In tutta Italia si vota per Camera e Senato. Il voto è abbastanza semplice, sulle due schede, la seconda scheda, quella del Senato, la riceveranno gli ultra 25enni, l'altra vecchi, sulle maggiorenni, sì. È importante fare la regola base, un solo segno. Niente di più, è un solo segno nel quadratino del simbolo, perché ci troveremo davanti una scheda con tutti i simboli dei partiti. Una lenzuolata, insomma. Una mezza lenzuolata, soprattutto bisogna stare attenti perché non si riconoscono bene le coalizioni. In realtà i simboli sono attaccati quando i partiti sono localizzati, distanziati leggermente quando non sono distanziati. L'importante è cercare il simbolo che si vuol votare e tracciare un segno o una linea o una croce, come si preferisce, dentro il quadrettino, non nel quadrettone grande della coalizione, ma sopra, solo esclusivamente sopra il simbolo. Se si fa così non si commettono errori. Per il regionale, lo diciamo perché sono 3 regioni sì, importanti, occorre invece una scheda un tantino più complicata, ma diciamo il voto più importante è sicuramente il voto sul presidente. Troveremo il nome del presidente e il simbolo collegato. Se si vuole si può tracciare un segno sul nome del presidente, volendo, ma non è obbligatorio, si può anche scrivere una croce sulle liste collegate, e volendo ancora, è sempre una facoltà, il nome. Però ecco, in tutta Italia, nelle schede per Camera e Senato, che sono, lo ricordiamo, sono la scheda gialla e la scheda rosa, un solo segno è solo sopra il quadretino del simbolo, e così non si sbaglia. Altra cosa importante, lo ricordiamo, lo stanno ricordando tutti, ma ce ne si scorda spesso, al seggio si va col documento e con la tessera elettorale, quella che delle vecchie votazioni. Se no, sei arrivati lì per niente, giusto? Come? Se no si è arrivati fin lì per niente. Dice, ah, se no si arriva lì per niente. E se si è smarrita si può chiedere, durante l'apertura dei seggi sono aperti gli uffici comunali, si può ritirare, però meglio controllarlo subito, evitare problemi. E, ecco, l'importante, direi, la grande crisi, qualunque cosa si voti, effettivamente votando si dà un messaggio di legittimazione delle istituzioni, che alla fine è la cosa di cui complessivamente, al di là di chi vincerà, c'è più bisogno. Grazie Giuseppe Busia, buon voto a te. Ciao. Grazie, grazie. .0024 c'è Vito da Isernia? Tu vuoi dire Vito? Sì, sì. Eccoci. Quindi siamo nel Molise. Siccome sì, ho sentito un po' la trasmissione, hai fatto bene. Che le lezioni, i libroni, le scritte, le matite, no? E mi sono ricordato che qualche lezione fa avevano provato, testato le lezioni elettroniche. Mm. E volevo sapere se come mai questa lezione elettronica non ha più funzionato. Questo mi interessava sapere. Vito, evidentemente... Cioè, avevano fatto degli esperimenti, sì, su alcune zone col voto elettronico praticamente. Ah. Mi ricordi un po' un candidato che non posso nominare perché siamo in silenzio elettorale, Vito, ti ringrazio. Michele, brevemente, probabilmente è una delle tante cose su cui ancora non si è riusciti a fare qualcosa di definitivo, di costruttivo, no? Ma io non me lo ricordo neanche quell'esperimento. Ma io mi pare di ricordare qualche reminiscenza così molto lontana. Senti, fra le cose positive del Guardian, che dice dell'Italia... Dice l'immancabile cibo, vabbè, quella è un po' una banalità, ma è vero. E poi il modo in cui vengono considerati e accolti i bambini, sì, il made in Italy, la moda, lo sport, sì, eccetera, eccetera, il vasto patrimonio culturale. E poi, sì, dice la terra dell'impero romano, quindi noi ci rifacciamo, cioè, un po', sì, grazie al nostro passato ci salviamo. E però dice una cosa che a me sembra un po', come avranno fatto a dire questa cosa, i treni italiani. Sono una cosa I treni italiani. I treni italiani. So, si potrebbe fare un'intera puntata, anzi una ventina di puntate su italiani. Non so come li abbiamo trovati un'eccellenza italiana questa di... Ma forse non hanno preso i treni regionali dei pendolari. Dei pendolari, dei pendolari che sono costantemente... L'alta velocità posso capire, ma ci sono altre difficoltà che ogni giorno, almeno io vivo in Lombardia, ci sono dei ritardi spesso terribili per chi va da... Sondrio, Milano, Varese, Bergamo, Como, da Monza a Milano, che sono pochi chilometri, ci sono ritardi a volte. Insomma, il sistema ferroviario dei pendolari in Italia è uno dei problemi. È enorme questo problema. Enormi, vagoni terribili, non so se mai provato a entrare su queste carrozze sporche. Sì, sì. Insomma, fa caldo quando fuori fa caldo, fa freddo quando fuori fa freddo, diciamo che insomma, ecco, su queste cose qui. Dimmi un'altra cosa buona invece dell'Italia, Michele. Ma, io so di dire una cosa che può essere contestata, ma credo che noi non siamo, nonostante ci siano purtroppo, ahimè, delle sacche terribili, ma non siamo un popolo razzista, in fondo. Mm. Ci sono delle situazioni terribili, è verissimo, ci sono dei localismi, è vero, però è quella cosa che ha scritto il Guardian sui bambini, e credo che riguardi anche abbastanza la quantità di adozioni che noi abbiamo fatto. Mm. Io credo che comunque l'Italia alla fine abbia nel DNA, gli italiani abbiano una capacità di accogliere che altri non hanno. Michele, siamo in chiusura, voglio ricordare che hai scritto Penso a Dio qualche volta di notte, incontri con gente famosa, insomma il modo di credere o di non credere, le riflessioni, le domande che si fanno personaggi famosi su questo tema comunque così importante. Michele, io ti faccio una proposta: se entro in politica e propongo l'abolizione dell'inverno, la restituzione immediata di primavera e soprattutto dell'estate, tu sei d'accordo? Mi voti? No. Non mi voti, ti piace? No, perché io voglio tutte e quattro le stagioni. Mi piace, se no non ci sono più le mezze stagioni. Mi piace ogni tanto un po' di disaccordo. Grazie Michele Brambilla. Grazie a te. Grazie a voi, potete risentire la trasmissione sul sito di Radio 24, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. E da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.